Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Addie, come on, I'm on this. Oh, you're on this? You're on this? He's walking all over you. I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future. And my dreams all fade away. We'll be right back. stiamo già ascoltando da qualche settimana questo nuovo album War Stories da parte di James Lavelle, che usa lo pseudonimo di Uncle, e ci siamo concentrati qua in Eclettica soprattutto sul brano in cui è presente Josh Homme. È un disco questo in cui sono molte le collaborazioni, di solito si usa l'aggettivo prestigiose, come quella di Ian Astbury, ex Cult, ve lo ricorderete sicuramente, ed è proprio lui che avete appena ascoltato, era la sua voce, quella ascoltata in Burn My Shadow. Ora invece uno dei nomi che sicuramente hanno caratterizzato, e sono contento che la caratterizzino anche in termine, l'inizio della stagione di Eclettica, un esordio di quelli che lasciano il segno. Zach Condon, ragazzo del Midwest statunitense che suona musica tipicamente balcanica, però contaminandola con strumenti improbabili come l'ukulele. Dopo l'album d'esordio dell'anno scorso, ci ha raggiunto nelle scorse settimane anche un EP, assieme alla notizia che sta registrando un album nuovo di lunga durata. Per ora non sono ancora previste sue date in Italia, però visto che passa per l'Europa quest'estate, chissà mai che all'ultimo momento se ne aggiunga una. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down, it's not been found, it's not a season. vialetto di mattoni rossi che conduceva al cancello in ferro battuto continuava all'interno della proprietà di mio padre, terminando nel giardino sul retro della casa. Tutti ritenevano che casa nostra, la casa di Baba, fosse la più bella di Wazir Akbar Khan, un quartiere nuovo e ricco nella zona nord di Kabul. C'era addirittura chi pensava che fosse la più bella della città. Il vialetto d'accesso, fiancheggiato da cespugli di rose, conduceva ad una grande costruzione con pavimenti in marmo e finestre immense. Il pavimento dei quattro bagni era rivestito da intricati mosaici di piastrelle, scelte personalmente da Baba a Isfahan. Alle pareti delle stanze erano appesi arazzi intessuti con fili d'oro che Baba aveva acquistato a Calcutta. Al piano superiore c'era la mia camera da letto, quella di Baba, e il suo studio, chiamato anche la stanza del fumo, che profumava sempre di tabacco e cannella. Baba e i suoi amici se ne stavano lì, dopo cena, sdraiati sulle poltrone di pelle nera. Caricavano le pipe, Baba diceva rimpinzare, e discutevano dei loro tre argomenti preferiti: politica, affari, calcio. A volte chiedevo a Baba il permesso di rimanere con loro, ma lui ogni volta mi rispondeva: «Questo è il momento degli adulti. Perché non vai a leggere un libro?» Poi chiudeva la porta lasciandomi solo a domandarmi perché con lui fosse sempre il momento degli adulti. Mi sedevo in corridoio, le ginocchia piegate contro il petto, e a volte rimanevo lì un'ora, anche due, ad ascoltare chiacchiere e risate. Il soggiorno al pian terreno aveva una parete curvilinea con mobili costruiti su misura. Sui muri, immagini di famiglia. Una vecchia foto sgranata del nonno con Re Nadir Shah del 1931, 2 anni prima che il sovrano venisse assassinato. Stivali da caccia, fucile in spalla e ai loro piedi un cervo abbattuto. C'era una foto del matrimonio dei miei genitori. Mio padre, elegantissimo, nel suo completo nero. Mia madre, una giovane e sorridente principessa in bianco. In un'altra foto mio padre e il suo migliore amico e socio in affari, Rahim Khan, ritratti all'esterno della casa. Nessuno dei due sorride. Ci sono anch'io, in braccio a mio padre che ha l'aria stanca e triste. Le mie dita stringono il mignolo di Rahim Khan. Di fianco al soggiorno c'era la sala da pranzo. Dal soffitto a volte pendeva un lampadario di cristallo e al centro della stanza c'era un tavolo di mogano intorno al quale potevano sedersi una trentina di invitati. Cosa che, dato che mio padre amava dare feste sontuose, accadeva quasi ogni settimana. Sulla parete di fronte alla porta c'era un imponente camino di marmo che per tutto l'inverno splendeva di fiamme rosso-arancio. Questo era ancora il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Stop. L'avevo dichiarato settimana scorsa che qua in Eclettica su Rock FM non ci spaventano le canzoni lunghe e ne avete appena avuto una dimostrazione pratica che è proprio vero. Un estratto da Star Destroyer, il disco del quintetto newyorkese di Brooklyn, per la precisione di nome Alex Delivery, disco dal quale ci ascoltavamo di solito Comad, brano solo leggermente più corto, ma quest'oggi in Eclettica è stata fatta una scelta completamente diversa. Ed ora ritorniamo sull'ultimo in ordine di tempo, disco di inediti di Nick Drake. Black mountain, try to spit in your face. Oh, black mountain, try to spit in your face. Baby's cropping whiskey, oh, she's practicing bass. On all black mountain, mean as they can be. Oh, black mountain, mean as they can be. They use gunpowder just to sweeten the tea. Had a girl on Black Mountain, sweetest girl in town. Had a girl on Black Mountain, sweetest girl in town. But she met a sweet black man and then she threw me down. Well, old black mountain can't keep a man in jail. Oh, black mountain can't keep a man in jail. Jury call him guilty, judge will grant him bail. Come back to black mountain, need my reason, my gun. Come back to black mountain, need my reason, my gun. Gonna cut her if she stands and shoot her if she runs. Mommy, could we please talk about this later? No, we can't talk about it later because Ned and I have to go to work. We have jobs. We contribute to society, all right? I am an assistant to the mayor of the city. Hello? What? Could you get her out of here, please? Why? Why her? Turn up! Hey, man! Hey, dude. Stagione numero 13, settimana numero 38, volume numero 1, indice, Linda Thompson con Anthony, Dan Deacon, Air Traffic, Blonde Redhead, Xavier Rudd, Carpaccio, Uncle con Ian Asbury, Beirut, Alex Delivery, Nick Drake, Best Friends. Giulio Caperdoni vi saluta e vi rimanda a domani, sempre alle 19, su Rock FM.